Brasil. La nostalgia è tu Brasil. Brasil sta lì. L'Italia qui. Tutti convocati. Di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Cercati, non mi sono mai piaciuti, anche finita la gara ho detto che le condizioni climatiche sono realmente impegnative, quasi proibitive, ma come lo sono per noi lo sono anche per gli altri, al di là dell'abitudine che può avere una squadra a giocare in un certo clima o meno. Abbiamo avuto la conferma, io penso anche ieri e probabilmente anche oggi, che molte squadre, diciamo, europee o sudamericane, ma non abituate a questo clima tropicale, hanno fatto, diciamo, molta fatica, no? E questa è stata un po' la conferma che spazza via ogni tipo di dubbio. Detto questo, non significa che noi dobbiamo andare alla ricerca di scusanti o alibi, perché poi al di là delle complicazioni che ci possono essere, la verità è stata anche che con la Costa Rica non siamo riusciti neanche a sprazzi a poter sciorinare quel gioco che magari ci aveva fatto apprezzare tempi addietro nella partita contro l'Inghilterra. Questa è la verità. Cavani e Suarez sono una grandissima coppia d'attacco, ma non lo scopriamo sicuramente a questo mondiale, ma ce ne danno conferma ormai da parecchi anni, cioè da quando giocano in tandem in nazionale e anche quando non giocano spacchettati e singolarmente nei loro club. Però è anche normale che se incontri una squadra del calibro dell'Uruguay ci siano dei valori individuali e in questo caso anche di reparto, insomma, di livello, insomma, straordinario. Ciao a tutti. Dunque, Mick Jagger, Mr. Mick Jagger è uno con il quale abbiamo un buon feeling. Lo ricorderete molti e molti anni fa, con quella maglietta addosso, in un concerto in un luogo diverso d'Italia, era a Torino. Però, insomma, se Mr. Mick Jagger pronostica Italia 2, Uruguay 1, viene voglia di seguirlo. Poi so che oggi sarà giornata di battaglia con i miei amici ascoltatori, 800 24 0024, ma cosa volete, le campagne politiche sono così. In questo momento il mio, nostro partito è in ribasso, quello degli ottimisti, ma naturalmente non molliamo la bandiera, la teniamo in pugno. C'è chi fa pernacchie via sms 349-238-6666, so già cosa mi diranno sull'Italia in Costa Rica, orrenda, questo è evidente, so già cosa mi direte al numero verde 800-24-0024. È chiaro che questo è il giorno dei brividi caldi, del filo al quale siamo appesi, noi come l'Uruguay, anzi quello dell'Uruguay è ancora più sottile perché, come sapete, a noi basta il pari, a loro no, e questo fa qualche differenza. Poi cosa volete, la vita è questa: se andiamo a casa e perdiamo contro l'Uruguay dopo aver perso con la Costa Rica una partita che onestamente è stata inaccettabile per varie ragioni, e non mi venite a raccontare del clima, del caldo e di queste cose qui, perché l'unica cosa che non può essere questo è un alibi, e anche in questo studio adesso fa un caldo da morire, io esco, me ne vado perché c'è troppo caldo, non posso giocare. No, non si fa così. Il caldo esiste, le condizioni ambientali esistono, stiamo vedendo un mondiale bellissimo in cui le all'interno del quale i fattori climatici influiscono, sì, ma fino a un certo punto. Ho visto cose molto peggiori e spero di non vederne in futuro in Qatar, ma ne sono quasi certo, questa è un'altra storia. Questo è un mondiale bellissimo, è il giardino dell'incertezza. Il secondo giro di Valzer, ed è di questo che parleremo tra poco con un ospite che stiamo aspettando, mentre Pardo arriva più tardi, sta ancora dormendo forse. Il secondo giro ha cancellato la Spagna, ha cancellato l'Inghilterra, ha buttato diversi dubbi su molte grandi competitor, su molte grandi concorrenti di questo mondiale, grandi pronosticate, molti dubbi, molte ombre, quindi non solo l'Italia. 800 24 00 24, vi aspetto qui a tra pochissimo. Tutti convocati. Samsung, l'eccellenza tecnologica nella climatizzazione, vi presenta Strade in diretta. In apertura la segnalazione di un gentile ascoltatore: c'è un mezzo pesante fermo sulla tangenziale ovest di Milano all'altezza di Lorenteggio verso l'Autosole, prestate particolare attenzione, si è formato oltre un chilometro di coda. Ci spostiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, rallentamenti dopo un incidente tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione Livorno. Ora sull'Autosole, 2 chilometri di coda per un veicolo che ha perso il carico tra Casal Pusterlengo e Lodi verso Milano, 1 chilometro di coda invece tra Barberino e Roncobilaccio verso Bologna per un veicolo in panne. Infine verso Firenze, code per lavori tra Rioveggio e Roncobilaccio. Ricordiamo il nostro numero verde per le vostre segnalazioni, 800 08 36 22. È tutto, ci risentiamo tra mezz'ora. Tutti convocati. Siamo gli ottimisti. Ben ritrovati al consueto appuntamento di ottimismo contemporaneo obbligatorio. Non c'è niente di nuovo. All'inizio di tutte le manifestazioni in Italia c'è sempre il pessimismo. Yeah! Io dichiaro ufficialmente che fondo il partito dell'ottimismo. Yeah! C'è troppo poco entusiasmo, porca vacca, secondo me andiamo là e vinciamo. Yeah! E quando mi è stato posto la domanda chi vince i mondiali, io ho detto l'Italia. Yeah! Dai, basta piangere addosso, di qui e di là, vinciamo noi. Siamo gli ottimisti, ben ritrovati al consueto appuntamento di ottimismo contemporaneo obbligatorio. Yeah! Penso anche che più la posta in palio, insomma, è alta, e probabilmente meglio riusciamo a rispondere. Questa è la storia che lo dice, però è anche vero che non ci sono certezze. Allora, cosa facciamo? Carta a straccio del nostro manifesto? No, no, ancora per oggi no. Io sono convinto che domani si vada a giocare la partita che serve per passare questo turno. Ne resto convinto. Sto leggendo varie considerazioni. Io non ho mai detto che il Belgio è poca cosa, mai. Ho sempre considerato il Belgio, ma come tutti, una delle possibili outsider. Certo che ieri ha giocato una pessima partita contro la Russia. Avevo detto, non era il mondiale del fallimento africano, a parte il Camerun, sono tutte probabili qualificate agli ottavi di finale. Anche c'è stata una rivisitazione di questo concetto nel secondo round di partite, da cui sono emerse cose enormemente interessanti. E ne voglio parlare subito con Paolo Condò, prestigiosissimo inviato della Gazzetta dello Sport e per fortuna nostro amico. Ciao Paolo. Ciao Carlo, buongiorno a tutti, non vi sento benissimo. Noi spero sì. Spero che migliori la qualità. Vedrai che miglioriamo. Allora accontentiamo. Senti, tu sei, resti ottimista, sei pessimista, hai cambiato il tuo giudizio, il tuo umore, il tuo mood in questa vigilia per quanto riguarda l'Italia? Io resto convinto che con 2 risultati su 3 le probabilità di passare siano superiori a quelle di uscire, ti dico una banalità ovviamente, però trovo che sì, il 66% effettivamente delle possibilità sia nostro vantaggio, il che significa che è caduta la linea, io ho paura, e significa che dobbiamo ripristinare il collegamento. Tanto altri argomenti che vi sottopongo e di cui vorrei parlare con Paolo Condò. Allora, il secondo giro, stasera abbiamo delle partite estremamente interessanti, con polemiche incluse, come sapete, perché giocheranno Camerun e Brasile e Croazia Messico alle 22, con gruppo A, con Camerun già escluso, già eliminato, il Brasile che è lì con i suoi 4 punti, Croazia e Messico che è uno spareggio. Però dall'altra parte alle 18 si giocano Australia-Spagna, c'è cioè una partita di una tristezza e di un'amarezza, io credo, senza confini. Vediamo anche cosa è successo nel ritiro della Spagna con vari problemi che sono emersi, con Del Bosque che ha litigato con Fabregas, ha detto i giocatori pensano a se stessi, insomma un gran casino, un bel putiferio come era deciso ad attendersi. E poi soprattutto alle 18 si gioca Olanda-Cile, che è una partita chiave, perché a quel punto il Brasile andrà in campo potendosi scegliere l'avversario nel suo prossimo mondiale, cioè Olanda o Cile, prima o seconda, lo dirà questa partita. Paolo, rieccoci. Va meglio? Adesso come mi sentite? Adesso sì, collegamento terra-luna. Houston, bene. Non abbiamo più, sì, problemi. Allora, dimmi. Benissimo, stavamo dicendo che l'Italia è nella gabbia con serpente a sonagli. Sì. E quindi deve c'è ancora un po' di distanza, deve muoversi con grandissima cautela però. Sì. Perché sì, anche un solo morso, e parlando di Suarez mi sembra il termine più appropriato, certo, anche un solo morso può essere letale. Devi stare sei arrivato all'ultima partita che sei ancora in ballo, che non hai ancora attraversato le colonne d'Ercole, sì, e quindi devi starci estremamente attento, devi, sì, sempre pensare che è una squadra composta da due giocatori sostanzialmente. Certo, certo, non è ancora passato le colonne d'Ercole. Sì, più qualche buon, più, sì, qualche bravo giocatore, qualche giocatore di grande esperienza, giocatori che conoscono quest'area, sì, che sono arrivati terzi allo scorso mondiale, un sacco di cose vere, ovviamente. Però a non aver passato le colonne d'Ercole finora sono in molte. E dopo il secondo giro, stavo dicendo, alla fine mi pare che le uniche squadre ad essersi confermate siano state la Colombia, il Messico, il Cile e la Francia. Non ne vedo altre che si sono confermate rispetto alla prima partita. Caro Carlo, cadi anche tu in questo errore nel quale siamo caduti tutti. Non hai citato il Costa Rica. Bravo, scusami. Maestro, scusami, hai ragione. No, ma voglio dire, mal comune mezzo gaudio. Tutti quanti abbiamo sottovalutato evidentemente il Costa Rica. Ma il Costa Rica gioca a calcio. È una squadra molto piacevole da vedersi. Non è soltanto folklore e sottovalutazione da parte dell'Uruguay prima e dell'Italia poi. Anche perché, voglio dire, se sottovaluti il Costa Rica dopo che ha dato 3-1 all'Uruguay sei un perfetto imbecille, non sicuro, sicuro, sicuro. Abbiano questo dubbio. Quindi è una squadra che gioca molto bene a calcio, che avrà al 99% un ottavo di finale contro la Costa d'Avorio, penso che bel derby delle coste. E la cosa apre al Costa Rica la prospettiva di un quarto di finale addirittura. Sì, sì, potrebbe essere. Onestamente, saremmo tutti miliardari se ce lo fossimo giocati prima che iniziasse il torneo. Beh, bisogna rischiare un po', anche perché ad esempio il Belgio, sì, che abbiamo visto ieri, tutti lo abbiamo pronosticato insieme alla Colombia come gli underdog più accreditati, eccetera, eccetera. Beh, sì, ieri è stato brutto da morire il Belgio. Spocchioso, assolutamente. È una squadra ricca di grandi talenti, con Hazard che ormai è uno dei migliori giocatori del mondo sicuramente, che però secondo me non ha ancora, e sottolineo ancora perché è una cosa che troverà strada facendo, però probabilmente non a questo mondiale, più avanti verso l'europeo, non ha ancora la personalità della grande squadra. Ancora si perde un po' in certi momenti. La Russia è poca cosa, La Russia è pochissima cosa. La Russia è pochissima cosa, potrebbe passare. Li avevano incartati. No, infatti la Russia è una squadra di corsa, di corridori, di atleti, ma non ha nessun lampo e nessuna scintilla. Io invece sono interessato ad un paio di considerazioni da parte tua. La prima è sull'Argentina, perché l'Argentina, ok, punteggio pieno, è una che ha già compiuto la sua missione nel segno finalmente di Messi, mentre Cristiano Ronaldo poveretto non è neanche arrivato ai mondiali, ha mandato la controfigura o il fratello Brocco, eccetera. Però l'Argentina fino adesso non ha fatto vedere niente, secondo me. E la Germania ha beccato due fischi dal Ghana, e se non c'è Klose a rimettere in piedi le cose, stiamo qui a parlare di un'altra sorpresona. Allora, l'Argentina è quella di 4 anni fa, l'Argentina di Maradona. Una squadra che non esiste dal punto di vista dell'insieme e che aspetta la giocata di Messi. La differenza è che stanno arrivando le giocate di Messi rispetto a 4 anni fa. 4 anni fa Messi non fece nemmeno un gol. Invece adesso Messi, dentro a due prestazioni tutt'altro che esaltanti nel loro insieme, ha tirato fuori due perle veramente spaziali. Non è che lo può fare per 7 partite, questo è evidente. Però lui così da tempo a se stesso e alla squadra di trovare qualche equilibrio in più. Credo sia ancora poco per vincere, però oggettivamente, come dicevi tu, o noi adesso, ed è un discorso che facevo ieri sera a cena con gli amici, per esempio, o noi entriamo nell'ordine di idee che la Colombia e il Cile possono vincere il mondiale, che sarebbe una cosa mai vista, naturalmente, e noi sappiamo quanto sia difficile vedere cose mai viste in un mondiale di calcio. Però la Colombia e il Cile sono partite come se puntassero il bersaglio grosso. Tieni presente che hanno 40-50 mila spettatori ogni gara. Quindi, a parte con Brasile e Argentina, loro giocheranno sempre, non in casa, ma proprio in un catino infernale a loro vantaggio. Sì. Cosa che gli azzurri devono sapere fin da adesso. Sì. Se passeranno l'Uruguay, troveranno la Colombia e giocheranno, è come se giocassero a Bogotà. Certo. Nessuna differenza. E questo è il mondiale in Sud America. Non sarà mica un caso che le europee vincono in Europa e le Sud America, certo, le sudamericane in Sud America. Certamente. Ecco, e quindi questa è l'Argentina. L'altra cosa che mi chiedevi? La Germania che, insomma, non ha fatto grande impressione con il Ghana, eh. Tra l'altro, ripeto, ha subito due gol. Secondo me la Germania ha sottovalutato la seconda partita. Che non è da loro. Ha vinto 4-0 col Portogallo, si è trovato di fronte a un'africana che aveva perso con gli Stati Uniti nella prima gara. E probabilmente nella seconda gara sono entrati con una testa non tedesca, ecco. E hanno rischiato di pagarla, poi hanno anche rischiato di vincere. Insomma, considero questo 2-2 un piccolo incidente e mantengo la Germania sulla stessa linea della Francia come le europee virtuose, viste fino a questo momento. Paolo, ti volevo chiedere un'ultima cosa, lasciando stare il Portogallo, abbiamo visto stanotte con gli Stati Uniti rimettere in piedi, tenere, insomma, attaccare il respiratore artificiale, perché di questo si tratta. Il Portogallo è mezzo fuori e merita di finire fuori, perché non ha fatto vedere niente fino adesso. Cristiano Ronaldo, come la Spagna. Niente di diverso rispetto alla Spagna, ovviamente con meno qualità e con la sua stella che non è totalmente proponibile ad un mondiale in questo momento a livello dei migliori. Un altro abbaglio che, qui lo confesso, ma lo sappiamo tutti, e molti di noi hanno preso, è quello del calcio africano. Dicevo, questo mi sembrava il mondiale del definitivo ridimensionamento del calcio africano. Loro si sa come sono molto ondivaghi. Ebbene, al secondo giro la Nigeria che si ripropone, il Ghana che pareggia 2-2 con la Germania e l'Algeria che, va bene, era la Corea del Sud, ma è divertentissima, è bellissima da vedere giocare, piena di talento, di qualità, di velocità. Ma guarda, io l'anno scorso sono stato alla Coppa d'Africa e ho visto che finalmente si sta muovendo qualcosa dietro la generazione dei Drogba e degli Eto'o. Che ormai io non so, secondo me hanno passato i 50 anni che sì, più o meno. Le carte di identità sono infatti, abbastanza. E tu è pronto, no? Per il Milan, però, qualcuno lo vuole al Milan? Sì, ma è tristissimo, ma non è casuale che si parli dei club italiani, sì, per questi giocatori qui. Ecco, se i manager italiani mi vogliono telefonare, gli do un elenco di bolliti che sono prontissimi per le nostre grandi squadre. Sì, sì, sì. E spero che traspaia la mia indignazione in questa battuta sarcastica, perché è allucinante. Io capisco, non avete più soldi, puntate sui giovani. C'è quel Siena 2,5 milioni ancora per una stagione al Milan, che è una cosa che urla vendetta, che mi dà i brividi a Rio de Janeiro. E magari vendono Cristante, sì. È una cosa veramente. Comunque sì, in Africa si sta muovendo qualcosa e ci sono dei giovani che stanno emergendo e avranno, io non lo so se seguiranno Drogba e Eto'o, a parte gli scherzi, sono stati dei giocatori grandissimi, ma insomma sono stati, adesso naturalmente non possono più dare quello che davano una volta, però non so, Atsu del Ghana, il numero 7, quello molto veloce, già in Coppa d'Africa l'anno scorso era annunciato come un grande giocatore. Aurier, il terzino della Costa d'Avorio, che se io fossi stato un club italiano, dopo Costa d'Avorio con chi hanno giocato l'ultima, con la Colombia, sarei andato lì e l'avrei immediatamente preso, invece ci sta giustamente pensando l'Arsenal, che come sappiamo ha un'altra agilità. Ecco, ma ci sono dei giocatori che stanno emergendo, emergono le squadre. L'Algeria, certo, è una squadra. E l'Iran, per passare all'Asia, anche l'Iran mi ha fatto una grandissima impressione. Di grande organizzazione. Paolo, ti ringrazio molto, ti abbraccio. Sì. Grazie, sempre un piacere. Buona giornata a tutti. Ciao Paolo. Ciao. Condò. Ci fermiamo per la borsa 800240024. Avete voglia di parlare un po'? Vi aspetto qui. Convocati. Almeida rientra, secondo veloso, cross di prima, un rilancio sbagliato. Nani! Stati Uniti 0, Portogallo 1, al quinto minuto, la firma di Nani! Jones, carica il destro, Jones! Jermaine Jones al 64esimo, il pareggio degli Stati Uniti. Al limite Bradley con il sinistro, la palla rimane lì. Zussi la mette in mezzo, Dempsey all'81esimo, partita ribaltata. Clint Dempsey, 2-1 Stati Uniti. Ronaldo, il cross sul secondo palo, Barella all'ultimo respiro, Barella al 95esimo, l'assist di CR7, il colpo di testa di Barella, il Portogallo è ancora vivo. Pegoli in area, ancora 1-2, Brahimi, superazione dell'Algeria, segna Yassin Brahimi. Prima la prende di testa, Son in area, Son, Bucherello ferma, lì, secondo palo, gol! 4-2, segna il capitano, cala il sipario, l'Algeria vince 4-2 contro la Corea del Sud. Hazard sul fondo, mette il pallone, Origi con la porta spalancata, non sbaglia, il classe 95, il Belgio gioca malissimo, ma va in vantaggio, 3 dalla fine con Origi. Allora, questi i gol che abbiamo visto ieri, riassunto dei gol che abbiamo visto ieri, ovviamente c'è chi fa delle previsioni anche su quello che potrebbe succedere in altri gironi e la malizia non è mai troppa. Chi scrive: caro Carlo, secondo te i bravi e seri tedeschi biscotteranno alla grande con gli americani allenati dalla pantegana bionda tedesca al secolo Jürgen Klinsmann? Beh, un pareggio e passano tutte e due. E chi vuole essere lieto sia, certo è che il Portogallo ha un punto, ieri sera era già morto e meritava di perdere contro gli Stati Uniti, diciamoci la verità, Stati Uniti che mi stanno molto impressionando, meno 4 in differenza reti, quindi Portogallo praticamente spacciato. Ghana, vediamo, anche il Ghana ha un punto, quindi Portogallo-Ghana, partita della speranza, e al piano di sopra magari non si faranno poi molto male, se vogliamo pensarli in maniera un po' maliziosa, lecito, eh? Pasquale, provincia di Modena, buongiorno. Buongiorno Carlo, buon pomeriggio. Buongiorno, dica. No, sentivo prima che diceva i due partiti, il partito pessimista e dei pessimisti e il partito degli ottimisti. Io, da buon italiano, ho creato il terzo partito, quello dei realisti. Sì. E la realtà è che purtroppo l'Italia si giocherà la qualificazione agli ottavi nella terza partita e Prandelli nuovamente ha mischiato le carte in tavola. Sì. Quindi non lo so, sinceramente trovo che sia partito con delle certezze Prandelli, ma che nell'arco di queste partite, di questi pochi giorni in Brasile, siano un attimino state stravolte. E non credo che sia stato per la preparazione delle partite, credo che ci sia forse un problema di spogliatoio. No, non credo. Problemi di spogliatoio io non ne vedo, non ne annuso, insomma, ma anche stando a quelli che vivono a contatto con la nazionale non mi pare di capire. Poi interroghiamo Ricci, Pardo, eccetera, e scateniamo la nostra rubrica Ola Profonda, ma non mi pare di intuire problemi di quel tipo, Pasquale. Il realismo ci sta, il suo realismo ci sta, io preferisco forzare la mano e tenere alta la bandiera dell'ottimismo, anche perché non vedo la ragione per cambiare idea. È chiaro, la partita con la Costa Rica è stata non storta di più. Ecco, il cambio, cambi di strategia, sappiamo che ormai è chiara la formazione che Prandelli butterà in campo domani sera contro l'Uruguay. Si va praticamente alla formula Juventus, i tre difensori centrali, quelli della Juventus, e poi come vogliamo chiamarlo, 3-5-2, insomma avremo quei tre difensori centrali e avremo i due terzini, i due laterali, rientra De Sciglio e dall'altra parte Darmian, che saliranno verso la linea di centrocampo. Sono tre difensori o sono cinque difensori? Non credo che faccia una grande differenza. La differenza la fa il fatto che De Rossi non c'è, e in partite come questa è un uomo estremamente importante. E poi davanti la coppia che tutti volevano vedere, cioè Balotelli immobile, certamente tutti volevano vedere in campo immobile, su Balotelli dopo la prima partita non ha strusciato pallone contro la Costa Rica, lo sappiamo, ma la parte più imbarazzante di quella partita è stato il fatto che l'Italia non è mai riuscita a tirare in porta. Cassano irrilevante, ininfluente, non so se era la sua unica carta, ma non credo, stiamo a vedere anche cosa succede domani sera. Ecco, la domanda che ci si può fare tutti insieme è questa: ma Prandelli ha cambiato per paura e ha fatto progettato, ha attuato una mossa molto populista, perché Immobile in campo lo vogliono tutti, oppure si continua con il discorso a monte, cioè l'Italia è una squadra in grado di cambiare pelle, di giocare con diversi sistemi, molto camaleontica, perché questo è ciò che si è detto fin dall'inizio e questo è ciò che andremo a capire. Eugenio, buongiorno. Eccolo qua. Eccolo là. Allora, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi. Cioè, l'ascoltatore che mi ha preceduto mi ha un po' anticipato il concetto, ma non nella forma. La mia idea è quella, io non voglio criticare assolutamente nessuno, solo delle considerazioni. Dell'ultimo discorso che ha fatto lei, arriviamo al mondiale con una squadra che non ha neanche un'ossatura per poter proprio cambiare qualcosa. Si cambia in continuazione, fortuna con delle nuove forze fresche arrivate all'ultimo momento, tipo Darmian, senza se no non so cosa facevamo. Ma poi il concetto è anche questo: noi dai valori che hanno espresso in campo la spina dorsale della nostra squadra, il portiere l'abbiamo cambiato, forse più forte questo o quell'altro, il centravanti, che il suo club non è più convinto di tenerlo, tante altre cose lì per altre ragioni, suppongo. L'ultima cosa che le dico è l'infortunio di Montolivo. Noi sembrava che avevamo perso Maradona, in realtà Montolivo nella sua carriera non ha mai vinto niente, perché noi ci mancano più tipi di giocatori che non avendo vinto niente non mi credo che siano fuori classe. No, ma al di là del vinto niente qualcosa o più o meno, stiamo vedendo anche diversi giocatori, mi viene in mente Cristiano Ronaldo, che ha vinto qualunque tipo di cosa a livello individuale, a livello di squadra. Insomma, il mondiale è qualcosa di particolare, è qualcosa di questo tipo. Dunque, Montolivo non ha vinto niente, va bene, Montolivo gioca comunque nel Milan, Montolivo è un giocatore prezioso nel disegno di Prandelli perché dà certi equilibri, ma io sono d'accordo sul fatto che non è rimasto a casa, con tutto rispetto e l'affetto per Montolivo, qui facciamo un milione di auguri, non abbiamo perso Pelé, Platini o Maradona, abbiamo perso un buon giocatore molto utile per il centrocampo. Certamente l'unica cosa che sulla quale sorveglierò è la storia degli alibi. Non voglio sentire un alibi. Questo da lor signori, naturalmente, voi potete dire quello che volete, però già la storia del caldo a me è piaciuta pochino. Ok, fa caldo in Brasile, non sono stati concessi minuti di sospensione, però tutto lì, non abbiamo perso con la Costa Rica, con il Costa Rica quello che è con Costa Rica, perché faceva caldo. Nessuno mi venga a raccontare queste cose qui. Il mio amico Leo Turrini, ciao Leo. Ciao a tutti, come va? Io benissimo, e tu laggiù in Brasile dove stai? Allora, qui a Natal piove disumanamente, visto che parlavi del caldo, no? Ci siamo svegliati in mezzo a un temporale tropicale, questo significa che c'è qualche speranza di recuperare le energie motorie. Ma dai, lasciami dire una cosa. Dilla. Tu hai notato il concerto mitico dei Rolling Stones al Circo Massimo? Sì. Che Mick Jagger, ultra settantenne, correva più di Abate. Allora, questo è il vero problema, hai capito? Per i tuoi noi, costa ricari lì a Recife, no? Sì. Tutti a dire, ah, ma loro sono più abituati al clima dei nostri. Ma ce n'erano alcuni, costa ricari, che giocano nel campionato russo. Certo. Con temperature siderali, quindi abituati a che? Ma no, insomma, è una situazione un po' così. Abituati per estrazione, kit, insomma, per nasci, per gli ussoli. Avremmo bisogno di Keith Richards a centrocampo. Ma come no, sono d'accordo con te. Che alla peggio si perde, ma ci si diverte un sacco, anche nel dopo partita, Leo. Senti, no, sai cos'è? Dimmi. Alla fine tu devi sostenere questa tesi, se proprio dovesse andare male, è mica la fine del mondo, è solo la fine del mondiale azzurro. Ormai ci siamo anche abituati a fare certe figure, e quindi voglio dire, non drammatizziamo, buttiamola in cacciara e se ne riparlerà in Russia, dove ci sarà il problema del freddo. Sì. Perché fra 4 anni il mondiale russo, vi voglio vedere, non siamo abituati. Allora lì va a giocare verso Novosibirsk, hai capito? Lì ci vorrà, a Coverciano ci vorrà l'iglu. Adesso c'è la casetta, poi metteremo l'iglu. Leo, ti posso chiedere un attimo di pazienza per il ben noto traffico e poi ti chiedo un paio di cose, perché l'avrai vista la corsa anche laggiù, no? Avrai visto che è successo in Austria? Sì, allora ho bisogno di un tuo commento subito dopo il traffico. Tutti convocati. Allora, Leo Turrini, e se fosse il biondino e non il moretto a portarsi a casa il titolo mondiale di Formula 1? Allora, guarda, Hamilton secondo me in Austria era in modalità Balotelli-Costa Rica, cioè off, nel senso che sabato ha buttato via la gara, non solo la pole position, è costretto a partire dalla quinta fila, il re nero della Mercedes, ha anche limitato i danni riuscendo ad arrivare secondo. Rosberg, mio personalissimo parere, come talento puro, sta un gradino sotto rispetto a Hamilton, però certamente sbaglia meno nelle circostanze in cui in questo campionato Hamilton stava davanti, comunque perché ha sempre massimizzato, diciamo così, la prestazione, il risultato alla portata della sua vettura. Adesso ha più di un gran premio di vantaggio perché sono 29 punti in più e potrà anche un pochino amministrare, tanto col meccanismo dei punteggi che ha la Formula 1 per recuperare 29 punti, cioè parlando che Rosberg arrivi secondo perché questi corrono da soli, certo, no? Certo. A Hamilton non basta vincere nel 4 di fila per andare davanti, perché la differenza è 7 punti, 7 per 4 28, come direbbe giustamente Tiago Motta, grande ragioniere del nostro centro. Tra l'altro io volevo dire una cosa, sarei qui a proporre uno scambio alla pari, Raikkonen Tiago Motta, perché sono di una lentezza estrante tale, no? Che Motta sulla Ferrari però fratello mio, facciamo attenzione, perché Tiago Motta va bene, ma Kimi Raikkonen rimane anche perso nelle nebbie di Maranello, dove ha perso qualunque tipo di motivazione, qualunque tipo di anima, no, di voglia, di grido, no, rimane Kimi Raikkonen. Tu sai che io sono un ferrarista, so, di rito raikkoniano, so, quindi con me sfondi da porta aperta. Mi sono anche, devo dire, dato da fare e molto compiaciuto quando si è presa la decisione a Maranello di riportarlo in Italia. Al tempo stesso devo ammettere che al di là dei difetti della vettura, finora in questa stagione il vero Kimi non l'abbiamo visto e sembra appunto che al suo posto ci sia Diagone. Ecco, questo dolorosamente io devo ammettere, perché sì, 8 Gran Premi, stiamo 8-0 per Alonso. 8-0, vabbè, ma forse quello è un samurai. Sarebbe già stata sospesa per manifesti inferiorità. Quello è un samurai, combatte sempre e poi sì, in questo modo, combattendo sempre e sprofondando, perché ieri quinto, vabbè, ma non è questo il senso. Sì, conquista però sul campo il diritto quando ha voglia di rompere un po' le palle. Secondo me si conquista in questo modo il diritto di dire, okay, non mi date macchina vincente, io faccio l'inferno, arrivo dove posso arrivare, ma ragazzi, cosa volete più da me? Volete il sangue? Di più non vi posso dare, questo è il senso. Volevo farti sentire, Leo, prima di salutarti, invece, le parole di un tuo pupillo, Felipe Massa. Ah, certo che non posso essere 100% soddisfatto, no? Perché ero primo, stavo facendo una grandissima gara lì davanti, e poi sono fermato, sono tornato dietro a una Mercedes, l'altra ha attaccato a me, che mi ha sorpassato perché aveva anche le gomme calde, e poi Valtteri è tornato dietro, poi dopo con la Mercedes mi ha sorpassato, ho perso tempo e c'era anche di traffico qui alla fine del giro, che ho perso ancora tempo, e Valtteri è tornato davanti, quindi lì non ho avuto una fortuna in quello giro di fermare e tornare dietro tutte queste macchine, e lì è stato il problema della mia gara, però sono contento per la gara, sono contento per il risultato della squadra, penso che è molto positivo per tutti noi. Oggi siamo arrivati davanti anche a squadre come Ferrari, come Red Bull, come altre squadre che sono forti, quindi è tutto da lavorare per continuare così. Cosa mi dici di Felipinho? Guarda, lo sai, un bravissimo ragazzo, la pole di sabato è stata anche qualcosa di specifico, non solo per lui ma per la Williams, dopodiché io gli voglio un bene dell'anima, sì. Massa mi ha fatto anche la postfazione al libro su Senna, ma alla fine della fiera chi arriva davanti dei due della Williams? Bottas. Allora tu capisci che niente, è la leggenda di Calimetto che si perpetua, cioè anche quando Massa è in pole position, che è un evento, tu ti devi pensare, caro gente, Costa Rica batte l'Italia, Massa in pole position, io ho pensato domenica Marziani, capito? Stava succedendo l'incredibile ovunque. E poi dopo Bottas ci ha ricondotto la realtà, ecco, per quanto riguarda Uruguay, teniamoci stretti e ricordiamoci che in Russia fra 4 anni farà molto freddo, c'era un problema di temperature per i noti azzurri. Ma non ho capito, ecco, se sei pessimista o ottimista, cioè se rimani iscritto al mio partito hai cambiato sponda. Mio è quello dell'ottimismo, no, l'ho fondato l'altro giorno, adesso è un brutto momento, ma ci riprenderemo. Un brutto momento, però c'è già il titolo preso da Edoardo De Filippo, Natale in casa Prandelli, sì. Passiamo facendo un orrendo 0-0, salvataggio sulla linea di Barzagli, al sesto Barzagli. Minuto di recupero, e poi si va a eliminare la Colombia negli ottavi di finale. Grazie Leo. Senti, ti voglio salutare con questi 3 messaggi. Allora, Luca da Cesena, Turrini CT a vita. Non so in quale sport, ma scrive CT a vita. Domani pioggia gogo a Natale, dovrebbe essere neve, scrive Mimmo. Gli Stones erano in tournée in Italia anche durante i mondiali del 92, dell'82 e del 2006, quindi ci aggrappiamo alla cabala, alla maglietta e al pronostico del grande Mick Jagger dell'ottuagenario. Ultimo messaggio, Jagger e Richards non possiamo schierarli perché non passano l'antidoping. Ciao Leo. Forse questo è vero. Buona giornata a tutti. Ciao Leo. Penso la miglior gara per me di tutto il campionato. Abbiamo finito 18 secondi dalla Mercedes, senza safety car, senza niente, quindi abbiamo tirato tutta la gara. È andato più o meno tutto bene, quindi abbastanza soddisfatto. Per bene o per male, oggi la quinta posizione era al massimo, i 4 davanti erano più veloci, meritano essere davanti. E questo era anche Alonso. 800 24 00 24, adesso tra poco ci fermiamo, Bet Corner come di consueto, poi GR, poi torniamo insieme, arriverà Pardo, arriverà Dario Ricci, arriveranno altri ospiti, arriveranno le vostre telefonate, vediamo poi alla fine a chi diamo la maglietta di tutti i convocati, che è il gadget, il cult di quest'estate mondiale. A proposito, state in campana perché più tardi vi do il programma per domani, va bene? Domani ovviamente tutti convocati come ogni giorno dalle 14 alle 16, ma poi avremo extra time, avremo sorprese, avremo chiacchiere all'ora della partita, dopo la partita, perché questi sono i momenti che, insomma, è più bello vivere insieme, no? Secondo me è bello aspettare, è bello viverli, arrabbiarci ed essere contenti e fare polemiche, saltare sul carro dei vincitori e saltare giù da quello degli sconfitti, insomma sono tutte cose meravigliose che stanno dentro al mondiale e noi ci siamo. Dunque, rispettiamo il programma. Bad Corner, GR di nuovo qui. Quote e pronostici. Scatta oggi l'ultima giornata dei gironi al Mondiale brasiliano e si parte con il gruppo B, che in contemporanea alle 18 ora italiana emette gli ultimi suoi verdetti. All'Arena Corinthians di San Paolo c'è Olanda-Cile e ci si gioca il primo posto. Sono queste le quote SNAI per questa partita. L'1, la vittoria degli Orange, è quotata a 2,45, l'X è a 3,50, il 2, con il successo del Cile, è quotato 2,70. A Curitiba, all'Arena da Baixada, c'è la sfida tra le eliminate Australia-Spagna. L'1, la vittoria della squadra oceanica, è quotata a 6,50, l'X è a 4,75, il 2 invece è quotato 1,45. Alle 22, ecco i verdetti più attesi di giornata. Balla il girone A, balla soprattutto il Brasile, che a Brasilia attende il Camerun. L'1, la vittoria degli africani, è quotata a 22, l'X è 8,50, il 2 invece, con la vittoria della formazione di Scolari, è quotata 1,12. Sempre alle 22, c'è Croazia-Messico, questa volta a Recife. L'1, la vittoria della Croazia, è quotata a 2,50, l'X è a 3,30, il 2 invece è quotato a 2,75. Questa era l'ultima delle quote di oggi, a risentirci domani. Convocati. No, ma loro due sicuramente sono giocatori importanti in fase di finalizzazione, anche di partenza. In più Cavani aiuta in fase difensiva, e poi gli altri sono cagnacci, non ti regalano niente, attaccano, a parte che ci sono giocatori che magari, quello che ha giocato a Palermo, che a Palermo non si è affermato, invece lì fa un bel lavoro. Comunque anche lì il discorso è più psicologico. Io, se cominciamo a dire che ci basta pareggio, la vedo male. Bisogna muoversi, già c'è la gente che non corre tanto, non si muove tanto. L'inserimento di Cassano sicuramente non dà la vivacità, la velocità, perché nemmeno Cassano è grande corridore. Invece poi penso che la scelta di fare due esterni, cioè Insigne, anche se per me tardi, per me si poteva fare poi qualche cosa di più. Questo è il pensiero della Sfinge Zeman a proposito dei nostri avversari e di ciò che riguarda l'Italia. Saluto mio amico Pierluigi Pardo, ciao Pier. Come va? Bene, tu? Bene, stiamo per andare all'allenamento, alla conferenza stampa. Insomma, oggi è il match day numero uno. Piove, che Dio la manda. Che Dio la manda. Sì, insomma, forse una religiosa o no. Comunque, o Dio o il caso, ecco, sì. Fare con voi a seconda delle sensibilità. O Giove Pluvio che passa piove. Di lì. Sì. Sì, comunque piove e siamo qui. L'umore siamo com'è? Siamo tonici. Ma il mio è molto buono, per battute. L'umore, ragazzi, certo, è quello. Tu sei il mio barometro, sai com'è, no? Sì, no, l'umore è sempre quello. Diciamo che, insomma, sappiamo già eventualmente che mercoledì alle 17:30 c'è un aereo. Ecco, questo è l'umore della nazionale. Sì. Però cerchiamo di non pensarci, no? Adesso ovviamente io parlo della squadra, non dei giornalisti. Io spero che ci sia l'approccio positivo, insomma. È chiaro che l'Uruguay arriva meglio, perché l'Uruguay ha fatto schifo nella prima e ha fatto un'impresa nella seconda. Noi abbiamo fatto il contrario, e quindi è chiaro che adesso i più cazzi sono loro. Però, insomma, tutto si può ribaltare, dai. No? Cerchiamo di pensare positivo. Alla fine, se guardiamo anche i nostri avversari, sono una buona squadra. Ma è una squadra battibile, non è una squadra... Ma certo. Ma no, ma se perdi, se dopo aver perso con Costa Rica perdi anche con l'Uruguay, è giusto che tu salga su quell'aereo alle 17:45 di mercoledì. Non ci piove, non ci sono santi, ed è così. Io mi tengo l'ottimismo che ho dall'inizio, per questa ragione, perché non credo che questa sia una squadra in grado di fallire in questa maniera. Non penso che questa sia una squadra in grado di fallire in questa maniera, e dunque io credo che al solito modo italiano di tutte le spedizioni mondiali, in qualche modo faremo. Senti, condivido con te una pubblica informazione di palinsesto, eh? Sei pronto? Domani sera espropriamo il signor Cruciani dalle 18 alle 21. Vivremo insieme questa partita. Questo Italia-Uruguay del dentro Parenzo, fuori. Parenzo lo chiamiamo, eh? cioè, ma anche il signor Cruciani, chiamiamo tutti. Sì, anzi, sì, sì. Vorrei chiamare anche Barisoni, certo. Vorrei chiamare un sacco di gente che va a vedere la partita. Facciamo un gran cagnaro, un gran casino, un gran tifo. Deborah Rosciani, Deborah Rosciani. Sull'economia, sì. Nicoletta Carbone, come cambia l'alimentazione a seconda del risultato positivo o negativo, si mangia di più, si mangia di meno, il colesterolo, ecco, sì. Si beve di più, si beve di meno, sappiamo tutte queste cose. Gastronauta fondamentale, gastronauta, fondamentale. Come brindare in caso di vittoria, cioè, no. No, senti, ma tu Inter 24, le più grandi sconfitte, le più grandi vittorie della storia della nazionale, sì. Basta, mi sento. Dai, c'è più nessuno, sentiamo cosa da fare il direttore. Esatto. ecco che è arrivato Alessandro Vocalelli, anche lui c'è. Ciao direttore. Ciao, buongiorno a voi, agli ciao. Ascoltatori. Come va? Ciao. Qual è oggi l'umore? Bene, speriamo di rifare la stessa domanda e ridarci la stessa risposta domani sera. Ma l'umore com'è? No, positivo, bisogna guardare avanti con fiducia. Elimineremo in un colpo solo Uruguay e Inghilterra, pensiamo di eliminarne una sola, alla fine le eliminiamo. Senti, ma voglio chiedervi così per inciso, prima di parlare di nazionale, come lo vedete stasera questo incrocio del Brasile da una parte, dall'altra parte Olanda e Cile che giocano alle 18 e qualcuno, Van Gaal ha già detto, ma questa storia qui com'è? Loro guardano la partita e poi si scelgono un avversario. In realtà il calendario prevede questo anche per l'incrocio domani con l'Italia, un gruppo gioca alle 18, l'altro gioca alle 22. C'è qualcosa di perverso in tutto questo, sì o no? No, c'è qualcosa. Vai. Non c'è nulla di perverso, cioè, perché non è che si può pretendere che le squadre dello stesso girone giochino alla stessa ora, è giusto pretenderlo, è così. Ma addirittura pure che le squadre di un altro girone, perché poi saranno gli incroci, giocano tutte alla stessa ora, che facciamo? Il campionato italiano che giocano tutti. Certo. Vale, no? No, per come è sembrata un'esagerazione quella di Van Gaal, come quella di qualche brasiliano che ha detto c'è un complotto contro il Brasile, cioè, mi sembrano dei paradossi. Dai. Sì. Ma il complottismo va sempre molto di moda in ogni angolo del mondo. Fossi il Brasile, chi sceglieresti, Pier, visto che potranno farlo? Fossi Prandelli? Fossi il Brasile, fossi no, non, ah, non prendere vascolare, avevo capito male. No, appunto, innanzitutto assolutamente, cioè, è ovvio che non è che potessero giocare tutte e quattro in contemporanea, e semmai si può malignare sul fatto che casualmente il Brasile quella che sta dopo, però insomma, vabbè, stiamo parlando di aspetti secondari, che i calendari viene deciso prima, e ci sta anche che il Brasile non giochi nel primo pomeriggio locale, cioè, se vuoi sì. Mm-hmm. Di importanza della partita, ma io sceglierei, a me l'Olanda non convince, quindi a questo punto giocatela per il mondiale. Mm-hmm. Mi sembra una squadra bellissima ma non così solida. Vero. Mentre il Cile è una squadra un po' più tosta, sì. Quindi sì. Forse sceglierei Olanda, anche se può sembrare un paradosso, no? Perché comunque l'Olanda ha una storia un po' diversa e probabilmente ha anche un po' più talento, no? Però secondo me si incastra meglio con questo Brasile, che pure ha moltissimi difetti. L'Olanda è una squadra che potrebbe incastrarsi meglio con questo Brasile, mentre i cileni in non nazionale carichi come le sveglie e poi si pedala. Non lo so se il Cile potrebbe essere un grande affare per il Brasile. Nazionale italiana, Alessandro Vocalelli Prandelli che cambia tutto. Difficile dire se sia un segno di preoccupazione e di debolezza o un... Come dicevo prima, la prosecuzione del discorso iniziale, ci hanno fatto una testa così, Italia pronta a cambiare ad ogni gara, camaleontica, con molte soluzioni, varianti, frecce, eccetera. Certo che Immobile, sempre seduto con la Costa Rica, sembra una mossa che verrà messo in campo insieme a Balotelli, è certamente una mossa che fa contenti molti. Vogliamo dire che è una mossa populista? Diciamolo pure. No, è una mossa di buon senso. Io francamente... perché le autocitazioni non mi piacciono, però dopo l'Inghilterra sentivo tanti elogi sperticati, io continuavo a dire, a scrivere, a pensare, ma a me l'Italia non è che poi mi aveva fatto proprio così impazzire, mi sembrava una squadra comunque sbagliata anche nel momento che aveva vinto. Io credo che stavolta Prandelli fa le cose con buon senso, nel senso che, cioè, per dire, il campionato che ti ha detto che comunque la difesa più affidabile è quella dei tre della Juve, ce l'hai a disposizione, non è che c'hai, diciamo, di contro una soluzione alternativa così granitica, continui a mettere Abate, Paletta, Spozzi, Chiellini, per cui a un certo punto fa la cosa semplice, davanti al campionato si dice che Immobile, il giocatore, è stato di grazia, e a differenza dell'ultima partita in cui secondo me la cosa più normale era mettere Immobile, invece ha messo Insigne, Cerci e Cassano, vai sulla normalità. E a me generalmente le persone o gli allenatori o tutti quelli che fanno le cose più normali, più semplici, sono meglio di quelli che fanno meglio. Sono d'accordo. E tu, Pier? Sì, no, questo nasce da una confusione enorme, insomma, poi ovviamente tutti ci auguriamo, ci sono buone possibilità che questa sia la soluzione migliore. La difesa 3 io l'ho invocata alle 14.50 dell'altro giorno, cioè è chiaro che era la soluzione più logica, però insomma mi sembra che in questa partita noi vedremo il contrario di quello che Prandelli ha sempre detto, quindi? La confusione c'è, quindi? Ma non è che è inutile girarci, insomma, comunque. Quindi tu non lo interpreti come un buon segno, questo che vuoi dire? No, io lo interpreto come una cosa che ci sta, ma che secondo me è frutto del fallimento delle convinzioni che c'erano fino a questo momento. Cioè, se tu vai in giro dicendo che Balotelli Immobile è una coppia soltanto per pochi minuti in emergenza, poi la riproponi nella partita più importante, nella quale teoricamente hai due risultati su tre. Mi sembra abbastanza strano. Quindi tu credi che ci sia un occhio al campo, un occhio alle esigenze tattiche, un occhio gli occhi sono due, ragazzi, ho capito, lo so. Stiamo parlando e un occhio anche all'opinione pubblica. È la squadra dei presentabili. Allora, Paletta abbiamo stabilito che è scarso e quindi non tocca più campo. Tiago Motta l'ha provato e quindi non tocca più campo. Sì. Cassano, per carità, Cassano. Cassano? L'unico colpevole della partita dell'altro giorno. Insigne ha fatto poco, quindi giocano, cioè, si va avanti in maniera residuale, no? Balotelli si porta dietro il fatto che è un totem agli occhi dell'allenatore indiscutibile, ed è oggettivamente il giocatore che fa la differenza, non è che non me ne rendo conto, è sicuramente il giocatore, la divertita. Ciao Pardo, ce lo perdiamo strada facendo in mille comunicazioni satellitari. Ma l'ha preparata la valigia, Pardo, no? Non lo so, credo che abbia comprato delle cose lì. Almeno per scaramanzie, uno per scaramanzia la prepara, no? Poi no, però già controllato, hai visto direttore, ha già controllato l'orario della 17.45 di mercoledì, può essere che ci sia un volo, anche se tutti ovviamente pensiamo e speriamo di no. Senti, ma a proposito di Cassano, perché sappiamo che lui non è totalmente obiettivo, ma è vero che è l'unico colpevole della sconfitta contro Costa Rica, vero che leggo queste storie di malumori piccole strisciante all'interno del gruppo italiano, e dopo la partita con l'Inghilterra Cassano che lancia un bicchiere, Balotelli che fa un po' i fatti suoi, un po' emarginato dal gruppo, non parla con nessuno, eccetera eccetera eccetera, credi che ci sia qualche cosa da quel punto di vista oppure no? Credo che l'Italia abbia fatto, nel senso che quando non arriva il risultato, allora vengono fuori tutte, cioè, queste cose. Queste cose, se l'Italia avesse vinto non avrebbe parlato nessuno, anzi sarebbero state simpatiche goliardate, nel senso che questa è proprio letteratura del calcio, cioè quando non arrivano i risultati anche le cose minori diventano dei problemi, quando arrivano i risultati anche le liti, magari le scazzottate peggiori, diventano simpatici scherzi in famiglia, per cui io francamente penso che queste cose sono sempre successe, continueranno a succedere. Diciamo, con l'Uruguay torneranno tutti bravi, belli, simpatici, affiatati. Se perdiamo con l'Uruguay, da Abete in giù diventano tutti uno contro tutti. Pierluigi, notizie su Cassano? No, ma Cassano è fuori da tutto in questo momento, perché giustamente, cioè, Cassano la sua occasione ce l'ha avuta e l'ha fallita, non è che c'è. Ma cioè tu credi che non verrà ma riproposto, vediamo che domani vada bene eccetera eccetera, tu credi che non verrà riproposto? Allora, io credo che sia uno di quei giocatori comunque che ha dei colpi e quindi se le cose dovessero andare male, come mossa della ristorazione, uno come lui potrebbe entrare. Ci sono le condizioni, però in questo momento non è nel gruppo dei pari. Quindi praticamente la mossa dell'emergenza più totale. Senti Pierluigi, proviamo a ripristinare tra poco il collegamento telefonico. Io mi tengo ancora per un attimo invece il direttore Alessandro Vocalelli per rispondere insieme a un paio di ascoltatori, primo dei quali Fernando da Teramo, 80024 0024, numero verde. Buongiorno Ferdinando. Ciao, buongiorno. Ciao. Scusi, sono in macchina. Sì. Ascolti, io faccio un'affermazione molto semplicistica, non so se è stato già detto da altri ascoltatori, perché io ci sono sulla radio, sono in macchina, ripeto. A me suona strano il fatto che sia stata cambiata la squadra, l'impostazione, tutto, fra la prima partita dell'Inghilterra e la seconda. Non so, non riesco a capire. Tra la prima e la seconda, lei dice? Tra la prima Inghilterra e la partita che poi abbiamo giocato con il Costa Rica. Non riesco a capire per quale ragione, perché la squadra che vince non si cambia, si dice normalmente. Non riesco, ecco, magari qualche esperto più di me, insomma, del calcio forse riesce a dare una spiegazione logica a questa cosa. Ma a me non pare che sia stata cambiata profondamente la squadra tra la prima partita e la seconda, no? Alessandro? Sì, il problema è che è stata cambiata un po' in peggio, nel senso il vero cambiamento è stato quello di spostare Darmian sull'altra fascia, che ha voluto dire soprattutto anche togliere l'assistenza a Candreva. Quello è stato il cambiamento, per il resto anzi, Prandelli ha cercato di riproporre la stessa squadra sostituendo Verratti con Thiago Motta, e secondo me quello è un errore, perché come vuol dire anche secondo me questo un violinista con un batterista, esatto, perché ciò che c'era di caratterizzante era proprio insomma, se doveva essere la Tiki Taglia, allora facciamo la Tiki Taglia fino in fondo e non un mezzo sangue di questo tipo. Questo è certamente vero. Ma sei anche tu d'accordo sul fatto che Cassano sia bruciato la chance, comunque? Beh, penso di sì, anche per non colpe sue, nel senso che non ho capito perché è stato messo a fare il trequartista. Lui ormai è seconda punta, per cui me l'aspettavo più esterno, più largo. Invece si è messo a centrocampo, come dicono quelli bravi tra le linee, sì. Però per far soffrire anche Pirlo, che infatti nel secondo tempo è un po' sparito, perché aveva davanti a 20 metri Cassano, mentre Cassano secondo me doveva giocare eventualmente sull'esterno. Sicuro. Grazie direttore. A voi. Grazie Alessandro Bocarelli. Adesso vediamo se riusciamo a riagganciare Pierluigi Pardo laggiù in Brasile. Mentre c'è chi scrive: Cassano è come Harry Potter, se non fa magia non serve a niente. A cosa dovrebbe servire Harry Potter quando non fa le magie? A che cosa? Antonio Torino, buongiorno. Sì, buongiorno. Complimenti per la trasmissione. Dica. Io volevo dire che secondo me è stato un problema anche di approccio alla partita col Costa Rica, perché è impossibile che una nazionale come l'Italia può temere il Costa Rica, cioè, ma scherziamo. Cioè, siamo entrati in campo demotivati, senza motivazione, e poi non capisco neanche le scelte di Prandelli, perché tu non puoi presentarti con una punta nel senso statica come Balotelli quando hai a disposizione il capocannoniere della nazionale e del campionato italiano. Cioè, perché non fare uno schieramento offensivo, cioè far capire che noi siamo l'Italia, cioè il Costa Rica che deve temere l'Italia, contrario. Sì, questo in linea di massima può essere vero. Due considerazioni a Balotelli non è il classico centravanti, lo sappiamo bene, è chiaro che l'unica punta funzionale a quel modulo doveva stare là davanti e non c'era Santi, quindi fosse stato anche Immobile, che pure è un giocatore che ha caratteristiche diverse da Balotelli e da una qualunque prima punta classica, sarebbe stato chiamato con quello schieramento a fare lo stesso tipo di lavoro. Poi è vero, Pier, ci sei? Eccolo qua. Eccolo qua. Vai. Proviamoci. È anche vero che insomma, non credo, a parte il fatto che Costa Rica è una signora squadra, ne parlavamo anche prima con Paolo Condò, attenzione, non facciamo questo errore, ha dato tre fischi all'Uruguay, ha battuto l'Italia, passerà come prima nel girone, eccetera, eccetera. E non è solo una questione di fisiche, di fisica e di capacità di adattamento alle condizioni climatiche. È una squadra che ha della qualità. Detto questo, pensi che insomma sia stato sbagliato l'approccio, quindi l'Italia doveva essere più convinta di se stessa? È chiaro che la convinzione non è che la dimostri mettendo 8 punte, la dimostri in un'altra maniera. Il secondo tempo dell'altro giorno è stato una cosa inguardabile, fuori dal mondo. Ma devo dire la verità, anche una confusione mostruosa. Io ripeto, tu metti Cassano, giusto spero che sia, potevi anche non mettere Cassano all'inizio e gli devi dare un quarto d'ora, 20 minuti per poter fare la seconda punta. Poi c'è stato il cambio frenetico di inserire Insigne, che gioca sulla mantella di Cassano, cioè quella del centro-sinistra. Poi c'è stato il cambio di Cerce, cioè mi sembra che ci sia stata una confusione totale, cosmica. Immobile, sappiamo che doveva entrare, ma si è fatto male Marchisi, allora è entrato Cerce. Però insomma ci ha chiesto per giocare col 4-2-3-1, che era un modulo che praticamente non si era mai visto fino a questo momento, quindi ripeto, lo dico con rispetto, ma insomma, a me sembra che ultimamente siamo stati in balia degli eventi, e mi sembra che anche le scelte di questa partita, che sono scelte che ci possono stare, perché sicuramente Immobile una possibilità la merita, certo, però sono diciamo il frutto di una, non di una scelta, di una programmazione, di una visione che aveva in testa il CT, ma sono il frutto degli eventi, cioè siamo in balia degli eventi, e quindi facciamo, proviamo a tamponare la palla, questa è la, è la sostanza. Ma questa è la cosa più preoccupante in assoluto, se no, mi permette. Ma magari non è preoccupante, no, lo è. Perché come no? Poi come no? Uno le le soluzioni le può trovare anche per tentativi di errori nella vita, no? Delle volte ho capito, ma se prepari un mondiale, vai lì, uno straccio di idea, cioè devi avere nel piano A, piano B, piano C, avversari le conosciamo, abbiamo detto mille volte che è stato fatto un lavoro di scouting pazzesco, che sappiamo tutto, conosciamo tutto, abbiamo sistemi di preparazione di altra generazione, di un altro millennio, dello spazio, abbiamo tutto, sappiamo tutto, e poi siamo lì a scegliere a seconda del momento, del vento che tira. Questo è preoccupante. Però la risposta ce la diamo da soli, cioè, che a me piace, con i giocatori che sono stati convocati mi piace e mi sembra la soluzione più logica da sempre, però è una cosa che fino all'altro giorno veniva esclusa categoricamente. Balotelli e Immobile in campo insieme, anche dopo la tripletta con Fluminense, era stata considerata un'ipotesi assolutamente residuale. Allora, che stiamo facendo? Noi rischiamo di fare finire il mondiale senza aver giocato con una prima punta e una seconda punta, una partita normale con due giocatori. Capisci che è tutto abbastanza, sì, aleatorio, tutto abbastanza assurdo. Assurdo. Poi ci auguriamo tutti, e ci sono delle speranze, perché è evidente che se per esempio il ritorno di Verratti in campo al primo minuto dopo questa serie di Agomotta è una di quelle cose che ci può dare un minimo di speranza. È chiaro che Immobile è una possibilità, la merita, è chiaro che Balotelli, che pure sicuramente non ci è piaciuto contro Costa Rica, però è un giocatore troppo importante per toglierlo definitivamente, magari per rischiare di perderlo. Quindi le scelte sono abbastanza logiche, e il percorso col quale si arriva alla formazione che vedremo in campo contro l'Uruguay, che è assolutamente non il percorso frutto di un disegno e di un'idea che una in testa dal giorno zero, sì, ma del caso e degli eventi. Sentiamo Flaminia. Sì. Ribadisco, è anche abbastanza mediatico tutto. No, è anche abbastanza mediatico. Perché comunque alla fine chi gioca, giocano i presentabili, non giocano Cassano, Insigne e Cerci, perché in questo momento, esattamente come Palestra, come Thiago Motta, vengono visti come i colpevoli. Sì, ma è così. E d'altra parte è mediatica anche, nessuno me lo toglie dalla testa. Puoi chiamarla mediatica, puoi chiamarla populista se preferisci. La scelta di Immobile, non c'è un solo italiano in questo momento tra i dannati 56 milioni che non vuole Immobile, quindi tu sei Prandelli che fai, io lo faccio giocare, poi vediamo cosa succede, un po' perché sono convinto, molto perché sono convinto, un po' perché in questo modo, ok, io l'ho fatto giocare, poi vediamo. Tutti convocati. La tira dei milioni sicuramente vale il fatto che Klose, adesso tutti dicevano che avevo fatto male a rinnovargli il contratto, mi pare che i fatti saranno di prossimo. Vabbè, ha fatto gol in un minuto, però c'ha una certa età, presidente Klose, no? Guarda che il vino, ricordate sempre che il vino buono sta nella il paragone non è male, una battuta delle mie, che Klose è inossidabile. Klose è l'inossidabile, come dice inossidabile in tedesco? Ma tipo, cioè, l'orgoglio della Lazio, una cosa, la bandiera, sarà il ferro, finirà la carriera a Lazio? Beh, mi auguro di sì, lui ha un contratto che glielo consente di venire a carriera alla Lazio. Sì, perché, cioè, quanti anni ha? 35? Quanto gli ha fatto il contratto? Per quanti anni? Ancora con questi assoluti contratti, cioè io faccio un ragionamento pratico. Ha ragione, noi abbiamo rinnovato il contratto perché ritenevamo che fosse fondamentale farlo e che potesse dare ancora delle grandi soddisfazioni un anno, due, i tifosi. Mi pare che i fatti lo stanno testimoniando. Certo, sì. E questo è il mitico Lotito, un giorno da pecora sulla Rai, basta con sti contratti, gioca perché deve giocare, punto, gli daranno la mancetta la domenica, se non il contratto. Prima di salutare Pierluigi Pardo e di parlare con Flaminia da Piacenza, stia lì, Flaminia, 800240024, Pierre, è vero che Klose ha nascosto qualche problema della Germania, ma alla fine, dopo questo secondo giro, in attesa che cominci il terzo giro di tango, mi pare, ne parlavo prima anche con Paolo Condò, Colombia, Messico, Cile e Francia siano le uniche quattro che abbiano così mantenuto lo standard della prima partita. Tutte le altre, l'Argentina ha fatto schifo, ha battuto 1-0 l'Iran con gol a tempo scaduto di Messi, il Belgio è stato brutto da morire e ha quasi eliminato la Russia di Capello, l'Olanda ha vinto con l'Australia la partita più pazza del mondo, il Portogallo è praticamente morto e Cristiano Ronaldo non è neanche arrivato laggiù a giocare, insomma, che ci resta? che ci resta? Ci restano delle grandi sudamericane, mi sembra, delle sì. sudamericane alternative molto interessanti, Colombia, Cile, sicuramente anche lo stesso Messico, che non è sudamericano ma è centroamericano, anche se poi Croazia Messico secondo me è una partita complicatissima, la Croazia secondo me ha ottime possibilità di passare il turno, però no, sono d'accordo con te, è un mondiale dove non si vede una squadra dominatrice, dove nessuna delle favorite tradizionali fin qui ha fatto vedere cose eccelse, per cui dal Brasile alla stessa Argentina alla Germania mi sembra che tutte hanno faticato. Se ti dovessi dire la squadra che ha pensato di più ad oggi è la Francia, sicuramente, sì. Però bisogna considerare il girone, che è un girone così così, e poi insomma, praticamente come valore assoluto la Francia non è l'Argentina, insomma, probabilmente no, però ha una grande facilità nel fare gol, quindi, però insomma è un mondiale abbastanza impronosticabile al momento. Se si vuole credere alle stelle si crede all'Argentina, perché mi sembra che giocando due partite abbastanza brutte l'Argentina comunque ha vinto, e ha vinto sempre con Messi, e quindi dopo un anno di sofferenza e di problemi anche intestinali che abbiamo scoperto, però insomma siamo di fronte a un giocatore completamente compiuto nel momento più importante della sua carriera. Ciao Pier, sentiamo domani. Ma io sto qui, ti faccio un giro, facciamo un giro. Ce la fai? Sì, sono così, qua le linee vengono e vanno. Bene. Ma un giro dove? Ciao Pier. Ciao, anche il Piantanita. Ma un giro dove? Geolocalizzati, che i nostri ascoltatori vogliono sapere. La conferenza, l'arena Dunas, dove speriamo di non trovare tutto allagato, ovviamente. Insomma, sono con Curro di Repubblica, il signor Curro, sei ottimista, signor Curro? Molto ottimista, il clima è europeo. Quindi la partita sarà europea. Quindi era una questione di caldo contro Costa Rica? No, non era una questione di caldo, però è una partita nella quale non avremo alibi da questo punto di vista. Se la preparazione è stata fatta come si deve... Ma la preparazione è stata fatta come si deve? Questo non lo so, secondo te? Bisogna essere, non lo so, onestamente contro l'Inghilterra abbiamo faticato poco, poi contro Costa Rica siamo mezzi morti. Signor Vasago, lei è ottimista, signor Vasago? Abbastanza ottimista, anche perché così intanto scansiamo il decimillesimo pezzo sul caldo da quando siamo qui. Quindi oggi si fa un bel pezzo sulla pioggia ed è già freschezza, e poi credo che alla fine ce la facciano. Come sa, diciamo, a Torino Immobile è stato invocato, c'è un peso mediatico anche al di là del fatto che Immobile è un attaccante straordinario e merita una maglia per quello che ha fatto in stagione, ma insomma, credo che Prandelli ha sentito anche un po' queste voci, questa eco che arriva dall'Italia. Mi auguro di no, sarebbe ben grave che il CT facesse dettare la formazione da noi, dopodiché ben venga se accoglie il fatto di far giocare Immobile, che a nostro parere, a mio parere, ma diciamo merita sicuramente questa chance, anche tatticamente, per dare più profondità al gioco, quello che non c'è stato contro la Costa Rica. Assolutamente, capito? Ma Conte, Pier, visto che è lì Vasago, Conte starà gongolando sotto l'ombrellone, perché Prandelli domani utilizzerà il 3-5-2. Sotto l'ombrellone, Conte. Ma non credo, anche se comunque ovviamente questa è una grande vittoria, ma d'altra parte se porti un blocco Juve poi puoi anche farli giocare come sono abituati. Io credo che però ci sia una grande differenza, che è Verratti. Nella Juventus il centrocampo è molto più dinamico, c'è Pirlo e poi ci sono Vidale, Marchisio, Vidale e Pogba. Ecco, a noi manca Pogba. Vidal e Pogba mancano. Allora io non so se questo 3-5-2 in cui Balotelli e Immobile possono anche far finta di essere Tevez e Llorente, travestirsi da Tevez e Llorente, è più difficile che Verratti si travesta da Pogba. Senti, adesso ti faccio adesso vi faccio qualità. Anzi a tutte e due, perché vedo che c'è anche Dario Ricci collegato. Dario, dove sei tu? Dove sei Ricci? Proprio, eccolo, Pardo, ti aspettiamo, siamo già qua allo stadio. Dove sei tu, Pardo? Ma sei in ritardo, Pier? Ma sei in ritardo, Pier? Attenzione, metropolitana, io sei in ritardo. Santoni, cioè, se Ricci è già là e tu non sei ancora arrivato, sei in ritardo, cioè. Dimmi. No, Ricci è andato con mezzi propri. Io sono sul pullman ufficiale della Federazione. Santoni, vuoi confermare? Assolutamente sì, confermo. Siamo confermo. Sul pullman, bellissimo, una buona notizia. Siamo anche davanti sul pullman, quindi scenderemo per primi. Ricci invece, ha cercato di infiltrarsi. La prima volta che uno dice piove, quindi siamo tutti contenti, quindi... vediamo proprio la pioggia che ci viene incontro proprio, perché siamo davanti, ecco, un par di volte davanti al pullman per non perderci una goccia. Mi viene voglia di farvi cantare tutti in coro Singing in Under the Rain, mi viene voglia di farvela cantare tutti. Cantano Piove Governo Ladro, Piove Governo Ladro, la della signorina Gilma non è esattamente il massimo. Senti, no, Dario, sei allo stadio, vero? Eccomi. Ma sì, sono proprio, mi sto prendendo l'acqua. Condizioni del campo. Questa ancora non riesco a dirtela, Carlo, perché sto entrando. Ah. Però, come già avete detto da tempo, sentivo, abbiamo risolto il problema del caldo, forse ci troveremo quello dell'alluvione, perché nella notte, avete sentito, ieri si era diffusa un po' questa bufala dall'Italia, no? Di questa voragine che avrebbe impedito la partita, eccetera eccetera. Sono andato a vederla di persona, la voragine c'è nel quartiere di Maria Luisa, che è un quartiere popolare di alta speculazione edilizia, e nella notte c'è stato un altro crollo con qualche taxi che è rimasto interrato, però insomma chiaramente partita non a rischio, però sono 12 ore che piove e abbiamo visto già con in Camerun Messico, e qui quando piove ci va giù dentro alla grande, insomma. Cioè, quindi il problema si è spostato, ecco. Ascoltate ragazzi, c'è una voce invece che arriva da molte parti via SMS, ovviamente una bufala, non so da dove esca, però datemi lumi voi. Questa cosa sul voci sul doping del Costa Rica, a me sembra tavanata. Posso accomunare le due cose, anche il discorso della voragine di prima, nel senso che io sapete, amo Twitter, l'informazione veloce, le breaking news, però io credo che proprio l'esempio di ieri, no? Tutti i siti sui quali è uscito Italia Uruguay a rischio. Italia Uruguay non è mai stata a rischio. Italia Uruguay non, secondo me non è a rischio nemmeno dopo la pioggia di oggi. Uh-huh. C'è questa corsa su internet quasi inarrestabile a chi la spara più grossa. Non è mai stata a rischio la partita, questo è. Siamo stati ieri nella tavera di Maria Luisa, che è una delle immagini simbolo di questo mondiale, perché tu vedi proprio la differenza tra i grandi investimenti. Ecco, qua ci sono dei tombini qua sotto a noi, ieri sera 5 minuti per andare a cena, ci sono dei tombini aperti in città a Natal, ma proprio di 20, di 50 centimetri di un metro, cioè dove se uno mette male il piede si ammazza. Quindi voglio dire, il livello delle infrastrutture è allucinante in questo paese, allucinante. Quindi questo è un problema enorme, ma sparare la cosa grossa che appunto Italia Uruguay subito a rischio è proprio un esempio di come secondo me non dobbiamo fare come mestiere. Sì, e quindi anche sparare a grossa sul doping, sì, cioè perlomeno al momento mi sembra una butarda. Poi se dovesse arrivare qualcosa di ufficiale, di stato ufficiale, ne parliamo, ma non. No, perché ormai è abbastanza un refrain, no? Social network ogni giorno muore uno, non so se te lo date, adesso c'è questa ci sono dei siti, ci sono, e c'è questo tipo di malcostume per cui uno inventa la boiata e tutti gli hanno certo dietro, certo. No, poi è un vecchio refrain, ogni volta che l'Italia ha queste sconfitte un po' strane, il giorno dopo salta fuori la storia del doping e degli olandesi e degli argentini, e, insomma, storicamente è stato un po' così. Convocati. Allora, come ogni giorno, magliette di tutti i convocati per il migliore in campo tra gli ascoltatori, poi andate sul nostro sito radio24.it, inviateci un file mp3 della durata di un minuto, il tema, un vostro ricordo mondiale, il migliore tra tutti quanti verrà premiato con la maglietta autografata, ma soprattutto potrà, se ne avrà voglia, venire qui a parlare con noi in tutti i convocati. Flaminia, buongiorno. Buongiorno. Dica. No, io avevo fatto tre pezzettini di ragionamento che secondo me si riuniscono e volevo sapere se anche secondo voi poteva avere un senso questo piccolo ragionamento che avevo fatto. Io faccio l'infermiera, lavoro al pronto soccorso ortopedico, quindi sportivi ne vediamo parecchi, insomma. I calciatori arrivano dopo la partita ancora in divisa, sporchi di fango per qualunque tipo di dolore, sì, e hanno intorno alla barella madre, padre, allenatore e qualche anche compagno di squadra. Sì. I rugbisti, che nella nostra città ce ne sono parecchi, arrivano dopo aver fatto la doccia belli vestiti da soli, di solito camminano e poi, volendo guardare, quelli che si sono fatti più male sono loro. E questo è il primo pezzetto del ragionamento. Il secondo pezzetto è che i calciatori, partendo dai bambini e andando su fino ai ragazzi più grandi, quando poi gli guardiamo i piedi, molti hanno gli alluci neri, le unghie nere, il che vuol dire che colpiscono con le dita. Quindi qualcuno gli ha insegnato i fondamentali del calcio a modo suo, evidentemente. E quando gli chiedo così un po' polemicamente il motivo di questa cosa, danno la colpa alle scarpe strette. E io ultimamente ho guardato un paio le partite che ha giocato l'Italia dei mondiali, perché ero in ferie, ho avuto più tempo di guardarle, ho notato che comunque a livello di fondamentali siamo piuttosto scarsini. E sì, mi sto perdendo. No, Flaminia, la prego, ne abbiamo aperti 80 di cerchi, mi perdoni. Allora, il senso è, i rugbisti sono più fighi dei calciatori, vabbè, è un vecchio luogo comune. Sul fatto che abbiano le scarpe troppo strette, non lo so, a calcio si gioca con i piedi, quindi questo può essere vagamente, può essere vagamente normale. That's it, io direi che non so cosa possiamo, quale cerchio possiamo chiudere. Io comunque la ringrazio. Oh, chi è? Dario. Dario? No, dico che questo. Pardo. Questo spazio vi è offerto dalla federazione rugby, no, a parte tutto le battute, no, ma secondo me ha ragione. Adesso il secondo elemento sulle scarpe strette, francamente, mi sembra difficile da commentare, ma sì, il primo elemento, cioè sul fatto che i calciatori hanno una serie di atteggiamenti un po' da viziati, tra virgolette, hanno piccoli procuratori, questo è evidente. Insomma, io mi ricorderò sempre Mary Pierce, la signorina Pierce, che faceva la spesa al supermercato fuori da Wimbledon, esattamente come una persona normale. I calciatori, magari sono anche i calciatori che fanno la spesa al supermercato, non voglio fare tutto il montascio, però per quello che è il modo di concepire il calcio, con tutte queste attenzioni, la società che ti fa tutto, ti aiuta a cercare casa, ti trova, c'è il numero di telefono a qualsiasi ora, cioè sono molto coccolati. Adesso io non sento dire che questa è una colpa, sono molto coccolati e fin da piccoli hanno una serie di attenzioni enormi addosso che probabilmente sportivi di altro tipo non hanno. Poi devo dire la verità, la retorica sul rugby, io amo il rugby, però io credo che se il rugby si libera della retorica, poi possiamo può diventare certamente più interessante. Se si libera della retorica, può diventare certamente meraviglioso, ma anche strapieno di retorica. Hai fatto bene a sottolinearlo. Ciao Pier, ci sentiamo domani. Ciao, ti abbraccio. Abbiamo perso per strada anche Dario Ricci. Vabbè, senti, mi dai qualche numero, Franco Piantanida, sulla partita di domani, su questo mondiale, qualche curiosità statistica? In vista della partita di domani ce n'è uno molto, molto interessante. Nella storia dei mondiali, d'Italia, in cui ha fatto 17 partecipazioni su 20 totali, l'Italia solo due volte si è qualificata prima della terza partita. Ok, quindi noi ce l'andiamo a giocare all'ultimo, siamo fatti così, nel senso non, le soluzioni le troviamo strada facendo, non arriviamo forse mai concentratissimi, abbiamo bisogno di qualche scoppola, insomma noi è così, e dal 94 ci qualifichiamo sempre, quando c'è questa forma, sempre l'ultima partita, ci è andata male tra l'altro solamente una volta nel 2010 quando abbiamo perso con la Slovacchia, però è così, anche nel 34, è un esempio insomma tiratissimo per i capelli. Però vinciamo la prima partita con gli Stati Uniti 7-1, c'era una formula diversa, solo a scontri diretti. La seconda partita con la Spagna la pareggiamo, la prima 1-1, poi dovevamo rigiocare il replay, allora non c'erano i supplementari rigori. Però è una cosa da tradizione, noi abbiamo bisogno di giocare sull'orlo del burrone. E domani succede poco. E domani un burrone bello alto. Alex, provincia di Ferrara. Buongiorno. Sì, sono qui. Buongiorno, grazie poi per anche oggi convocazione. Voglio qualcosa su Maradona, perché sennò non vado a dormire tranquillo. Molto bene. Alex, dica. Bene, niente, sarò veloce. Telefonavo per una considerazione da tifoso, chiaramente, sulla tristezza del secondo tempo dell'Italia contro la Costa Rica. dove veramente i giocatori si passavano la palla invece che mordere gli avversari, sempre sportivamente parlando, mm-hmm. chiaramente si intende, e cercare con il sangue negli occhi e la grinta, la volontà di agguantare almeno un pareggio. Questa è una mera considerazione che mi ha fatto un po' alzare dal divano e pensare a fare quant'altro in quel caldo pomeriggio di venerdì scorso. Per quello che riguarda la Germania invece contro il Ghana, io ho visto una bellissima partita soprattutto nel secondo tempo, mm-hmm. dove visto aperto ci sono con numerosi capovolgimenti di fronte. Sì, sì, no, ma lo è stata, è stata una bellissima partita, però la Germania non mi ha impressionato, ma neanche dal punto di vista della tenuta come nella prima gara. Insomma, non è frequente che i tedeschi pigliano due gol. Ho visto alcune cose che non funzionavano perfettamente, e loro, insomma, è difficile parlare di sottovalutazione dell'avversario perché è una contraddizione in termini quando parli di Germania. Può essere una banalità, però la storia insegna. Loro non sottovalutano nessuno. Però la storia, mi è venuto in mente, insegna anche, guarda, mi è venuto un flash così, nel 2010 la Germania apre il mondiale in Sudafrica rullando l'Australia 4-0, seconda partita KO 1-0 con la Serbia. È un po' una similitudine. Poi la Germania arriva fino in fondo era semifinale, comunque in fondo, però c'è una similitudine anche sotto questo punto di vista. Siamo belli, siamo bravi, siamo gettonatissimi. Allora per la vittoria finale. Un errore, una pecca di gioventù, che è una squadra estremamente giovane, questa non lo è più. Questa è sopravvalutazione, sottovalutazione. Questa è una squadra matura. Maradona? Maradona, sentiamo il file e poi vai. A Grandona, che dijo eso, che lo che tengo puesto me lo gané trabajando. Lo che tiene puesto él, se lo compró con la FIFA. Y voy a parar el tema acá porque Mufa. Vabbè, ormai Diego rubrica fissa, si presenta in televisione e gli chiedono: cosa ne pensi del fatto che Grondona sia entrato negli spogliatoi dell'Argentina a fine partita a dire: ragazzi, abbiamo vinto perché all'ultimo minuto, perché Maradona se n'era già andato dallo stadio ed è lui lo iettatore, non vi preoccupate, voi siete una grande squadra. E Maradona alza il dito medio a Julio Grondona, presidente della Federcalcio argentina. Però un regalino, così, una chicchina. Dieghito. Alessandro dalla provincia di Modena, riusciamo in un minuto a parlare, dica. Beh, perlomeno mi avete tolto la curiosità sul perché l'Italia ha giocato così male l'altra sera, l'altro pomeriggio. Cioè? È stato colpa delle scarpe strette. Of course, non ci piove. L'ho imparato oggi. No, ma poi ogni alibi può diventare buono, eh. Ascolta, posso dire una cosa al volo, velocissima? L'errore di Prandelli, secondo me, col Costa Rica, quando una partita ormai persa 1-0, che mancano 10 minuti, che la tenti di pareggiare rischiando di prendere il secondo gol che ti comprometterebbe tutto il resto del mondiale, perché poi l'1-0 l'Italia due reti non l'avrebbe mai fatti, ha schierato tutta una serie di mezze punte, di laterali eccetera eccetera, scoprendosi ha rischiato di prendere il secondo gol. Cioè, lo sapeva Prandelli che sul 2-0 con l'Uruguay il pareggio non era più buono, non era più valido. Cioè, sono rimasto un po' sorpreso anche da piccole cose che però alla fine potrebbero compromettere il mondiale. Poi forse domani ha imparato che la formazione, se vuoi vincere, devi giocare un po' più spregiudicato, dai, insomma. Poi vediamo se quanto sarà spregiudicato il modulo di domani. Comunque, intervento di Alessandro, che merita prendere il migliore in campo, lo diamo così. Sì, oggi sì, al volo abbiamo bisogno di un last minute. Un last minute anche dal Brasile, mi ha mandato un messaggio Dario Ricci, non facciamo più in tempo a collegarci con lui, è sul campo dello stadio di Natal. Il terreno di gioco è in buone condizioni, l'erba non moltissimo, dice, è un po' gialla per il caldo e il vento, però oggi piove, magari, insomma, si rinfresca un pochino. Comunque, campo, ok. Gialla, pazienza, speriamo di vedere molto azzurro su quel prato domani. Vi ricordo, appunto, domani, solito appuntamento, tutti convocati. Maratona domani, dalle 14 alle 16, come sempre, e poi dalle 18 alle 21, che extra numero! Time. Va bene 5 così. Ore di tutti convocati. Grazie Franco Piantanini, Roberto Scaltitti in regia, Claudia Schettone in redazione. A domani, ciao. Tutti convocati.